Alle Tre Marie cominciò una febbre di attività che ne scosse il torpore. Esteban Trueba mise i contadini a lavorare come mai l'avevano fatto. Ogni uomo, donna, anziano, bambino che si teneva in piedi venne occupato dal padrone, ansioso di recuperare in pochi mesi gli anni dell'abbandono. Fece costruire un granaio e delle dispense per conservare le provviste per l'inverno, fece salare la carne di cavallo e affumicare quella di maiale e mise le donne a fare marmellate e conserve di frutta. Modernizzò la latteria, che era solo un ripostiglio pieno di sterco e di mosche, e fece in modo che le vacche producessero latte a sufficienza. Iniziò la costruzione di una scuola di 6 aule perché ambiva che tutti i bambini e gli adulti delle Tre Marie imparassero a leggere, scrivere e far di conto, sebbene non fosse dell'idea che acquisissero altre conoscenze affinché non si riempissero la testa di idee inadatte al loro stato e alla loro condizione. Tuttavia non riuscì a trovare un maestro disposto a lavorare in luoghi così lontani e di fronte alla difficoltà di acciuffare i ragazzini con la promessa di frustate e di caramelle per alfabetizzarli, lui stesso abbandonò quell'illusione e destinò la scuola ad altri usi. Sua sorella Ferula gli mandava dalla capitale i libri che le commissionava. Era una letteratura pratica. Grazie a questi imparò a fare punture iniettandole nelle gambe e fabbricò una radio a galena. Spese i suoi primi guadagni per comprare stoffe grezze, una macchina per cucire, una scatola di pillole omeopatiche con un manuale di istruzioni, un'enciclopedia e un carico di sillabari, di quaderni e di matite. Accarezzò l'idea di costruire un refettorio dove tutti i bambini ricevessero un pasto completo al giorno affinché crescessero forti e sani e potessero lavorare fin da piccoli. Ma capì che era da pazzi costringere i bambini a spostarsi da ogni estremo della proprietà per un piatto di cibo, sicché cambiò il progetto con quello di un laboratorio di cucito. Pancia Garcia fu l'addetta a sviscerare i misteri della macchina per cucire. Dapprima credeva che fosse uno strumento del diavolo, dotato di vita propria, e si rifiutava di avvicinarsi, ma lui fu inflessibile e lei finì per dominarla. Trueba organizzò un emporio. Era una modesta bottega dove gli operai potevano comprare il necessario senza dover fare il viaggio sul carretto fino a San Lucas. Il padrone comprava le cose all'ingrosso e le rivendeva allo stesso prezzo ai suoi lavoranti. Impose un sistema di buoni di acquisto che dapprima funzionò come una forma di credito e col tempo finì per rimpiazzare il denaro legale. Con i suoi fogli rosa si comprava qualsiasi cosa all'emporio e si pagavano i salari. Ogni lavoratore aveva diritto, oltre ai famosi fogli, a un pezzo di terra da coltivare nel tempo libero. 6 galline all'anno per famiglia, una razione di sementi, una parte del raccolto per coprire il suo fabbisogno, pane e latte giornalieri e 50 pesos che venivano distribuiti tra gli uomini a Natale e nelle feste nazionali. Le donne non avevano questo bonifico, sebbene lavorassero al pari degli uomini, perché non erano considerate capofamiglia, tranne il caso delle vedove. Il sapone da bucato, la lana da lavorare e lo sciroppo per rinforzare i polmoni venivano distribuiti gratuitamente, perché Trueba non voleva intorno a sé gente sporca, infreddolita o malata. Un giorno lesse sull'enciclopedia i vantaggi di una dieta equilibrata e diede inizio alla sua mania per le vitamine, che avrebbe dovuto durargli per tutta la vita. Si arrabbiava ogni volta che constatava che i contadini davano ai figli solo pane e nutrivano i maiali con uova e latte. Cominciò a indire riunioni obbligatorie nella scuola per parlar loro delle vitamine e al tempo stesso per informarli sulle notizie che riusciva a captare nei suoi maneggi con la radio a galena. Ben presto si annoiò di cercare l'onda col filo di ferro e ordinò in capitale una radio transoceanica provvista di 2 enormi batterie. Con quella poteva captare messaggi coerenti in mezzo a un'assordante confusione di suoni d'oltremare. Così venne a sapere della guerra in Europa e seguì le avanzate delle truppe su una mappa che aveva appeso alla lavagna della scuola e che via via assegnava con spilli. I contadini lo osservavano stupefatti, senza capire neppure lontanamente il significato di infilare uno spillo nel colore azzurro e il giorno dopo spostarlo nel color verde. Non potevano immaginare il mondo della grandezza di un foglio attaccato dalla lavagna. negli eserciti ridotti alla capocchia di uno spillo. In realtà, della guerra, delle invenzioni, della scienza, del progresso, dell'industria, del prezzo dell'oro e delle stravaganze della moda, allora non importava niente. Erano racconti di fate che non modificavano in nulla la ristrettezza della loro esistenza. Per quell'impavido uditorio le notizie della radio erano lontane ed estranee. E l'apparecchio perse prestigio rapidamente quando fu evidente che non poteva pronosticare le variazioni del tempo. L'unico a dimostrare interesse per i messaggi provenienti dall'aria era Pedro II García. Esteban Trueba spartì con lui molte ore. Dapprima accanto alla radiogalena e poi con quella a batteria, in attesa del miracolo di una voce anonima e remota che li mettesse in contatto con la civiltà. Tuttavia, questo non riuscì a ravvicinarli. Trueba sapeva che quel rude contadino era più intelligente degli altri, era l'unico che sapeva leggere ed era capace di sostenere una conversazione di più di 3 frasi. Era il più simile a un amico nel raggio di 100 chilometri, ma il suo monumentale orgoglio gli impediva di riconoscergli altre virtù se non quelle proprie della sua condizione di buon manovale. E non era neppure favorevole alla familiarità con i suoi subalterni. Da parte sua, Pedro II lo odiava, sebbene non avesse mai dato nome a quel sentimento tormentoso che gli bruciava l'animo e lo riempiva di confusione. Era un miscuglio di paura e di rancorosa ammirazione. Aveva il presentimento che non avrebbe mai osato tenergli testa perché era il padrone. Avrebbe dovuto sopportare le sue ire, i suoi ordini sconsiderati e la sua prepotenza per il resto della vita. Negli anni in cui le Tre Marie erano state abbandonate, lui aveva assunto in forma naturale il comando della piccola tribù sopravvissuta in quelle terre dimenticate. Si era abituato a essere rispettato, a comandare, a prendere decisioni e ad avere solo il cielo sopra la testa. L'arrivo del padrone gli aveva cambiato la vita, ma non poteva non ammettere che ora vivevano meglio, che non soffrivano la fame, che erano più protetti e sicuri. Qualche volta Trueba credette di vedergli negli occhi un lampo assassino, ma non poté mai rinfacciargli un'insolenza. Pedro II obbediva senza fiatare, lavorava senza lamentarsi, era onesto e sembrava leale. Se vedeva passare sua sorella Pancia nel corridoio della casa padronale col fare pesante della femmina soddisfatta, chinava il capo e taceva. Pancia García era giovane e il padrone forte. Il risultato prevedibile della loro alleanza cominciò a notarsi dopo pochi mesi. Le vene delle gambe della ragazza risaltavano come lombrichi sulla sua pelle bruna. I suoi movimenti si erano fatti più lenti e lo sguardo lontano. Aveva perso interesse nei divertimenti impudichi del letto di ferro forgiato e rapidamente le si era ingrossata la vita e le erano caduti i seni per il peso di una nuova vita che cresceva dentro di lei. Esteban ci impiegò molto ad accorgersene perché non la guardava quasi mai e, passato l'entusiasmo dei primi tempi, non la carezzava neppure. Si limitava a utilizzarla come una misura igienica che alleviava la tensione del giorno e gli offriva una notte senza sogni, ma aggiunse un momento in cui la gravidanza di Pancia divenne evidente anche per lui. Ne ebbe ripugnanza, cominciò a vederla come un'enorme botte che conteneva una sostanza informe e gelatinosa che non poteva riconoscere come figlio suo. Pancia abbandonò la casa del padrone e fece ritorno alla baracca dei suoi genitori, dove non le fecero domande. Continuò a lavorare nella cucina padronale, impastando il pane e cucendo a macchina, ogni giorno più deforme per la maternità. Non servì più alla tavola di Esteban ed evitò di incontrarlo, dato che ormai non avevano più niente da spartire. Una settimana dopo che lei se n'era andata dal suo letto, lui riprese a sognare rosa e a svegliarsi con le lenzuola umide. Guardò dalla finestra e vide una bambina magra che stava stendendo il bucato. Sembrava non avere più di 13 o 14 anni, ma era completamente sviluppata. In quel momento si volse e lo guardò. Aveva lo sguardo di una donna. Pedro García vide il padrone avviarsi verso la stalla, fischiettando, e scosse la testa inquieto. Nel corso dei 10 anni successivi, Esteban Trueba si trasformò nel padrone più rispettato della regione. Costruì case di mattoni per i suoi lavoranti, trovò un maestro per la scuola e alzò il livello di vita di tutti nelle sue terre. Le Tre Marie erano un buon affare che non aveva bisogno dell'aiuto del Filone d'Oro, ma al contrario, erano servite da garanzia per ottenere la proroga della concessione della miniera. Il cattivo carattere di Trueba si trasformò in una leggenda che si accentuò fino a divenire scomoda anche per lui. Non accettava che gli rispondessero e non tollerava di essere contraddetto. Considerava il più piccolo disaccordo come una provocazione. Inoltre era aumentata la sua concupiscenza. Non c'era ragazza che passasse dalla pubertà all'età adulta senza che lui le facesse provare il bosco, la riva del fiume o il letto di ferro forgiato. Quando non ci furono più donne disponibili alle Tre Marie, prese a inseguire quelle delle altre fattorie, violentandole in un batter d'occhio in qualunque punto della campagna, generalmente sul far della sera. Non si preoccupava di farlo di nascosto perché non aveva paura di nessuno. Talvolta erano arrivati alle Tre Marie un fratello, un padre, un marito o un proprietario a chiedergli ragione, ma davanti alla sua violenza incontrollata, queste visite di giustizia o di vendetta erano ogni volta meno frequenti. La fama della sua brutalità si diffuse in tutta la zona e suscitava invidiosa ammirazione tra i maschi della sua classe. I contadini nascondevano le ragazze e serravano i pugni inutilmente, dato che non potevano tenergli testa. Esteban Trueba era più forte e aveva l'impunità. 2 volte erano stati rinvenuti cadaveri di contadini di altre fattorie, crivellati da colpi di fucile, e nessuno aveva evitato di pensare che bisognasse cercare il colpevole alle Tre Marie. Ma i gendarmi locali si erano limitati a registrare il fatto sul loro libro dei verbali con la stentata calligrafia dei semi analfabeti, aggiungendo che erano stati sorpresi mentre rubavano. E la cosa non ebbe seguito. Trueba continuò a edificare il suo prestigio di spaccamondo, seminando la regione di bastardi, raccogliendo l'odio e immagazzinando colpe che non lo sfioravano nemmeno, perché gli si era indurita l'anima e la coscienza l'aveva messa a tacere col pretesto del progresso. Invano Pedro II Garcia, il vecchio prete dell'ospedale delle monache, avevano cercato di fargli capire che non erano le casette di mattoni e neppure i litri di latte a fare un buon padrone o un buon cristiano, ma piuttosto dare alla gente una paga decente invece di foglietti rosa, un orario di lavoro che non demolisse loro le reni e un po' di rispetto e di dignità. Trueba non voleva sentire parlare di queste cose che secondo lui puzzavano di comunismo. «Sono idee degenerate», diceva tra i denti, «idee bolsceviche per sobillarmi i mezzadri. Non si rendono conto che questa povera gente non ha cultura né educazione. Non possono assumersi delle responsabilità, sono bambini. Come possono sapere quello che è bene per loro? Senza di me sarebbero perduti. Prova ne sia che quando giro la testa va tutto alla malora e cominciano a fare asinate. Sono molto ignoranti. La mia gente sta benissimo, che cosa vuole di più? Hanno tutto. Se si lamentano è per pura ingratitudine. Hanno una casa di mattoni. Mi preoccupo di far soffiare il naso e togliere i parassiti ai loro figli, di farli vaccinare, di far sì che imparino a leggere. C'è un'altra tenuta qui che abbia una scuola? No? Quando posso li porto dal prete perché dica loro qualche messa e così non so perché il prete viene a parlarmi di giustizia. Non deve ficcare il naso in quello che non sa e che non è di sua competenza. Lo vorrei vedere a capo di questa proprietà. Vorrei vedere se farebbe tanti complimenti. Con questi poveri diavoli bisogna avere la mano dura. È l'unico linguaggio che capiscono. Se uno si impietosisce, non lo rispettano. Non dico che molte volte non sono stato molto severo, ma sono sempre stato giusto. Ho dovuto insegnare loro tutto, perfino a mangiare, perché da soli si sarebbero nutriti di solo pane. Se non sto attento, danno il latte e le uova ai maiali. Non sanno pulirsi il sedere e chiedono il diritto di voto. Ma se non sanno dove si trovano, come possono saperne di politica? Sono capaci di votare per i comunisti, come i minatori del Nord, che con i loro scioperi danneggiano tutto il paese. Proprio quando il prezzo del minerale è al massimo. Inviare i militari è quello che io farei nel Nord, perché gli sparino contro. Così si vedrebbe se la imparano una volta per tutte. Disgraziatamente la pena di morte è l'unica cosa che funziona in questi paesi. Non siamo in Europa. Qui quello che ci vuole è un governo forte, un padrone forte. Sarebbe bello che fossimo tutti uguali, ma non lo siamo. Questo balza all'occhio. Qui l'unico che sa lavorare sono io e vi sfido a provarmi il contrario. Mi alzo per primo e vado a letto per ultimo in questa dannata terra. Se fosse stato per me, avrei spedito tutti al diavolo e me ne sarei andato a vivere come un principe nella capitale, ma devo restare qui, perché se mi allontano, sia pure per una settimana, crolla tutto e questi disgraziati cominciano a morire di fame. Ricordatevi com'era quando sono arrivato 9 o 10 anni fa, una desolazione. Era una rovina di pietre e di avvoltoi, una terra di nessuno. Tutti i campi erano abbandonati, a nessuno era venuto in mente di canalizzare l'acqua. Si accontentavano di piantare 4 sporche lattughe nei loro cortili e hanno lasciato che il resto sprofondasse nella miseria. Era necessario che arrivassi io perché qui ci fosse ordine, legge, lavoro. Perché non dovrei esserne orgoglioso? Ho lavorato così bene che ho già comprato i 2 fondi vicini e questa proprietà è la più grande e la più ricca di tutta la zona, l'invidia di tutti. Un esempio, una tenuta modello. E adesso che la strada passa accanto, ne è duplicato il valore. Se volessi venderla potrei andarmene in Europa a vivere delle mie rendite, ma non me ne vado, resto qui a rodermi il fegato e lo faccio per questa gente. Senza di me sarebbero perduti. A ben guardare non sanno neanche fare le compere, sono come bambini. Non ce n'è uno che possa fare quello che deve fare senza che io non gli debba star dietro a pungolarlo. E poi mi vengono a raccontare la storia che siamo tutti uguali. C'è da morire da ridere. A sua madre e a sua sorella mandava cassette di frutta, carni salate, uova fresche, galline vive e sotto aceto, farina, riso e sacchi di grano, formaggio campagnolo e tutto il denaro di cui potevano avere bisogno perché non gliene mancava. Le Tre Marie e la miniera rendevano bene per la prima volta da quando Dio le aveva messe nel pianeta, come gli piaceva dire a chi voleva ascoltarlo. A Donna Ester e a Ferula dava quello che non si erano mai sognate, ma non aveva mai avuto il tempo in tutti quegli anni di andarle a trovare, sebbene fosse stato di passaggio in qualcuno dei suoi viaggi al nord. Era così preso dalla campagna, dalle nuove terre che aveva comprato e da altri affari che stava cominciando a prendere in considerazione che non poteva sprecare tempo accanto al letto di una malata. Inoltre esisteva la posta che li teneva in contatto e il treno che gli consentiva di mandare tutto quello che voleva. Non aveva bisogno di vederle. Si poteva dire tutto per lettera. Tutto meno quello che non voleva che sapessero, come la fila di bastardi che continuavano a nascere come per magia. Bastava gettare a terra una ragazza nei campi e rimaneva immediatamente incinta. Doveva esserci lo zampino del demonio. Tanta fertilità era insolita, era sicuro che la metà dei figli non erano suoi. Perciò decise che, a parte il figlio di Pancia Garcia, che si chiamava Esteban come lui e che non c'era dubbio che sua madre fosse vergine quando l'aveva posseduta, gli altri potevano essere suoi figli o potevano non esserlo, ed era sempre meglio pensare che non lo fossero. Quando arrivava a casa sua qualche donna con un bambino in braccio, per reclamare il cognome o qualche aiuto, la mandava via con un paio di banconote in mano e la minaccia che se fosse tornata a importunarlo l'avrebbe scacciata a frustate affinché le passasse la voglia di dimenare la coda al primo uomo che vedeva e poi dare la colpa a lui. In tal modo non era mai venuto a conoscenza del numero esatto dei suoi figli e figlie e la faccenda non lo interessava proprio. Pensava che quando avesse voluto avere dei figli o delle figlie avrebbe cercato una sposa della sua classe con benedizione della Chiesa, perché gli unici che contavano erano quelli che avevano il cognome del padre. Gli altri era come se non esistessero, che non venissero a raccontargli la panzana secondo cui tutti nascono con gli stessi diritti ed ereditano allo stesso modo, perché in questo caso tutto andrebbe a remengo e la civiltà regredirebbe all'età della pietra. Si ricordava di Nivea, la madre di Rosa, che quando suo marito aveva rinunciato alla politica, terrorizzato dalla grappa avvelenata, aveva iniziato la propria campagna politica. Si legava con catene, insieme ad altre signore, alle inferriate del Congresso e della Corte Suprema, offrendo uno spettacolo che metteva in ridicolo i loro mariti. Sapeva che Nivea usciva di notte ad attaccare manifesti suffragisti sui muri della città ed era capace di passeggiare per il centro in piena luce di una domenica a mezzogiorno con una scopa in mano e una cuffia da notte sulla testa, chiedendo che le donne avessero i diritti degli uomini, che potessero votare ed entrare nelle università, chiedendo inoltre che tutti i bambini godessero della protezione della legge, anche i bastardi. Quella donna è matta, diceva Trueba. Sarebbe come andare contro natura. Se le donne non sanno contare 2 più 2, tantomeno potrebbero usare un bisturi. La loro funzione è la maternità, il focolare. Di questo passo, un bel giorno chiederanno di diventare deputati, giudici, perfino presidenti della Repubblica. E intanto provocano una confusione e un disordine che può finire in un disastro. Stanno pubblicando pamphlet indecenti, parlano alla radio, si incatenano nei luoghi pubblici e deve andare la polizia con un fabbro a tagliare i lucchetti per poterle portare via agli arresti, che è quello che si meritano. Peccato che ci sia sempre un marito influente, un giudice di poca energia, un parlamentare con idee rivoluzionarie che le mette in libertà. Una mano forte è quello che ci vuole anche in questo caso.